La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16, 32 primi, 38 secondi, Ruggeri ha sforato, Enrico non lo farà mai di solito, però chi ha tagliato la trasmissione questa volta ha sforato. Allora, subito grazie a chi ci ascolta in diretta in podcast, vi ricordo l'indirizzo della versione Oscar, @radio24.it. La trasmissione di oggi nasce da una lettera che però è confermata anche da un articolo di Repubblica. La lettera l'ho ricevuta sul sito ieri e stamattina puntuale c'era un articolo di Repubblica firmato da Roberto Mania, pagina 15. E vi dico subito, quindi, andando in fretta, che l'argomento della puntata riguarda innanzitutto i lavoratori pubblici. Perché? Venerdì abbiamo visto, a proposito di progressività dei redditi, le cifre vere scomposte per classe di reddito dei contribuenti italiani. Abbiamo scoperto che quasi la metà dell'equivalente della popolazione italiana rispetto alla protezione dei contribuenti paga pochissimo di IRPEF. Quindi va bene, come dice il governo, se si anticipa a intervenire sugli IRPEF, soprattutto a chi ha bassi redditi, però siamo in condizioni tale già che quasi metà degli italiani non paga oltre 200 euro. Queste erano le cifre di venerdì a proposito di progressività. Adesso c'è un'altra novità, cara lavoratori pubblici, anticipata, però è un'indiscrezione confermata, ufficiale. La volontà del governo, probabilmente già in questa settimana il Consiglio dei Ministri ci dovrebbe essere venerdì, di approvare una lettera di indirizzo all'ARAN. L'ARAN è l'autorità responsabile della contrattazione pubblica dopo la riforma del 2001, quella che si chiama la privatizzazione dei contratti, cioè le modalità sono analoghe a quelle dei contratti privati, sia pure, l'abbiamo ricordato in altre trasmissioni, con la Corte di Costituzionale, Corte di Cassazione, che ricorda che l'impiego pubblico resta distinto da quello privato. Però questo atto di indirizzo da parte del governo sarebbe relativo ai contratti pubblici, a come le linee guida per i nuovi contratti. Sapete benissimo che siamo reduci da 6 anni di stop dei contratti pubblici e questa è l'unica voce nel bilancio dello Stato che ha avuto una regressione in termini reali del totale della spesa pubblica con questa misura abbinata allo stop del turnover. Sapete che, ne abbiamo già parlato, gli sindacati hanno protestato per le cifre in legge di stabilità per quest'anno necessarie al rinnovo dei contratti, a cui il governo si è detto favorevole, perché ci sono solo 300 milioni di euro stanziati, cioè pugno di euro a testa, visto i 3,2 milioni di dipendenti pubblici. Qual è la novità? Io su questo vi chiedo, cari ascoltatori dipendenti pubblici, di telefonarci per dire la vostra all'800 24 00 24, o le opinioni al 349 238 6666. La novità è che il governo in questi nuovi contratti propone di limitare gli aumenti, quindi i nuovi contratti, solo ai poco più di 800.000 su 3,2 milioni di dipendenti pubblici, che sono sotto i 26.000 euro lordi annui di reddito. Cominciamo da chi soffre di più, e questa la linea. Ma la domanda è: quando non si è fatto i contratti per 6 anni, è giusto? Io mi pongo anche il problema della costituzionalità, io non so la Corte Costituzionale cosa direbbe di fronte a un'impugnativa. Qui non stiamo parlando di misure discrezionali contro la povertà, stiamo parlando di rinnovi contrattuali dopo 6 anni, e lo Stato dice: vogliamo limitare i soldi, e quindi diamoli solo a 800.000 su 3 milioni e 2, cioè 1 su 4. Quelli che hanno meno, ok, quelli che hanno meno. E gli altri invece, ma come, non doveva essere la riforma Pia Madia quella che la svolta, il nuovo salario di merito nel settore privato, graduando e distinguendo, oltre agli aumenti contrattuali nazionali, anche con quello di merito per premiare e incentivare di più? Allora, questa è la notizia e vi chiedo di dirci cosa ne pensate. Repubblica oggi, fine della mia introduzione, assimila, a mio giudizio del tutto impropriamente, mi dispiace su questo, io non capisco letteralmente quello che scrive Roberto Mania di Repubblica, magari sarà colpa mia, lo chiederemo ai nostri ospiti, assimila questo indirizzo del governo, fare gli aumenti contrattuali solo per chi ha meno di 26.000 euro lordi l'anno nel pubblico impiego, alla proposta contrattuale privata di Federmeccanica. La proposta contrattuale privata di Federmeccanica non piace ai sindacati, ne abbiamo fatto già la puntata, perché è quella che riserva di più la contrattazione per il merito, non gradua affatto sul totale dei redditi i rinnovi contrattuali, escludendone quelli da una certa soglia in più. Quindi io proprio non capisco proprio come possa stare in piedi questa assimilazione, ma diciamo, questo è il margine. La sostanza è: come la prenderanno i sindacati? E soprattutto, secondo voi, cari ascoltatori, soprattutto se siete dipendenti pubblici, è giusto? Perché? Se è giusto, ci spiegate perché? Perché io proprio non lo riesco a capire. Allora, vediamo di analizzare meglio questa notizia, come è stata presa da alcuni dei protagonisti della controparte al tavolo pubblico, che se la troveranno a questo punto dovendo trattare con l'ARAN su questa lettera di indirizzo del governo. Allora, sono con noi il segretario della Confederazione Nazionale UIL del Pubblico Impiego, Antonio Fucillo. Grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Grazie a voi. E Arcangelo D'Ambrogio, segretario generale del DIRSTAT, cioè la Federazione Indipendente delle Associazioni e Sindacati Operanti nel Pubblico Impiego. Grazie di essere con noi. C'è Arcangelo D'Ambrosio? Sì, ci sono. Eccoci qua. Saluto anche a lei. Allora, Focillo, ci dice, per voi è una novità, ve l'aspettavate? Come reagirete? E soprattutto, ce ne spiega la logica. Ma guardi, intanto oggi la ministra ha cambiato atteggiamento dicendo che lei non ha mai detto una cosa del genere e che lei parla di persone che pigliano 200.000 euro di stipendio. Io non ho nessuna conoscenza di un fatto che ci siano nella pubblica amministrazione se non dirigenti che non sono per niente contrattualizzati e quindi non mi sembra che si ponga un problema di questo genere. Secondo, l'abbiamo già detto, noi non accetteremo mai che ci sia un contratto che dia pochissimi soldi, perché di tale cifra si tratta, ad alcune persone e ad altre no, perché il contratto collettivo nazionale è un contratto che serve a recuperare la perdita di potere d'acquisto e vanno coperti tutti i lavoratori, non ci può essere un lavoratore che ha dei soldi e altri no. Quindi è chiaro che di fronte a una posizione, se dovesse essere questa, la risposta dei sindacati, o almeno per quanto riguarda la mia organizzazione, sarà un no secco. Ho sbagliato io, secondo lei, a dire che non c'entra niente l'analogia con Federmeccanica, visto che mi pare di capire da come, è la seconda volta che Repubblica torna su questo argomento, poi vedremo che cosa davvero farà il ministro Madia, però da Repubblica mi hanno detto noi veramente abbiamo un documento in mano, ma in questo caso, da come lo capisco io, mi dica Focillo come lo capite voi, mi pare di capire che l'aumento è proprio limitato a quelli sotto i 26.000 euro, non si tratta di dire a livello nazionale, poi a livello territoriale per tutti, oppure no, da come l'avete capito voi? Ma la proposta che viene fatta più sui giornali, ripeto, perché il ministro l'ha smentita oggi, è una proposta che non si conosce bene qual è il limite entro cui poi bisognerebbe dare gli aumenti contrattuali ad alcuni o no. Si parla dei 26.000 euro, tenga presente che la media degli stipendi della pubblica amministrazione è di 24.000 euro. Ma se fosse 26.000 euro, gli 800.000 che hanno preso gli 80 euro dovrebbero restituirli. E tenga presente che già il 25% li ha restituiti, e in più con i 7,30 nessuno ancora ha la dimensione di quelli che l'hanno dovuto restituire, l'hanno aggiunto al 25% questo tipo di restituzione. Quindi ci sarebbe oltre danno anche la beffa, ma le ripeto, il contratto collettivo nazionale è un contratto che deve distribuire risorse per recuperare il potere di acquisto. Se si vuole diversificare, cosa possibile, lo si fa con la contrattazione di secondo livello, dove si stabiliscono parametri legati alla produttività, elementi di valutazione del merito e della professionalità dei dirigenti, la possibilità di adeguare la contrattazione l'organizzazione del lavoro in modo che sia realmente più produttivo, quindi sono tutte le condizioni se lo si vuol fare. Va svingolata, c'è solo un appunto, se mi permette, certo, che lo siamo fare. Qua per questo. Lei ha detto una cosa sulla contrattazione, è vero che in passato attraverso la modifica del famoso testo unico del pubblico impiego era possibile che si facesse contrattazione in modo serio e concreto. Oggi, per effetto delle norme che si sono succedute a partire dalla Brunetta del 2009, addirittura alla contrattazione nazionale è stata tolta, alla contrattazione di secondo livello, tutta quella che viene chiamata la cosiddetta prima parte dei contratti. Sì. E oltretutto ci sono materie che vengono decise dal dirigenza, quindi è stata privata la possibilità della contrattazione di intervenire nelle materie che sono materie prettamente contrattuali. Allora, mi faccia capire un'ultima cosa, poi abbiamo un secondo giro, però poi devo passare anche a sentire Arcangelo D'Ambrosio. Mi faccia capire una cosa, ricordo a chi ci ascolta che per passare alla contrattazione vera e propria, capiremo poi se queste iscrizioni sono fondate o meno, intanto sono stati accorpati i settori della pubblica amministrazione, che quindi sono, sono ridotti a 4 fondamentalmente. Però la domanda che faccio a Fucillo è questa: siccome sui parametri di produttività, entra il salario di produttività nella pubblica amministrazione, questo governo ci ha fatto, ci ha scommesso molto, l'ha sempre ripetuto, ci ha fatto insomma, anche una testa così, ma questi criteri poi come e con chi verranno stabiliti di settore in settore? E abbiamo già spiegato una volta che non saranno solo 4, ma ci saranno anche contratti di sottosettore. Ma voi avrete parte in causa a un tavolo settore per settore o subsettore per subsettore, oppure no? Guardi, la norma di legge oggi stabilisce che per dare lo stipendio, il salario cosiddetto accessorio, sì, di produttività, va dato in tutte le realtà al 25% dei dipendenti, perché ha stabilito delle fasce dappertutto, cioè da una sala operatoria a un ministero, a un l'INPS e così via, che i lavoratori che possono avere questo salario è solo un 25%. A un altro 25% non si, all'altro 50%, scusi, non si dà niente, e al restante 25% si toglie lo stipendio. Quindi questa legge, se dovesse essere applicata, non solo non permette a noi, ma non permette di trovare soluzioni per nessuno. Noi stiamo dicendo questo: liberate la contrattazione di secondo livello, le amministrazioni e il sindacato, realtà per realtà, stabiliranno sia i modelli organizzativi, sia le professionalità. Però per legge questo è precluso a oggi, sbaglio? A oggi sì, è precluso. Ecco, quindi il governo ha scommesso su queste quote fisse. A me fanno molto ridere, sia pure per ragioni diverse da lei, cioè io non capisco come si possa immaginare una quota fissa di chi ha diritto a X estratta di merito, visto che bisognerebbe valutarlo con parametri che possono avere ovviamente delle conclusioni variabili a seconda dei giudizi, non per quote fisse, però questa è la mia idea, francamente. Una sala operatoria va a dire al 25% voi siete bravi, gli altri sono stupidi. Vabbè, comunque, detto tutto questo, per legge il governo ha stabilito che è così. Quindi non questo governo, è già stabilito, sì, sì, beh, nell'attuale normativa, no, ma dico, noi chiediamo di cambiarlo. No, questo governo però non ha cambiato. Noi chiediamo di cambiarla. Esattamente. Allora, adesso, dal punto di vista di Dirstat, Cangelo D'Ambrosio, questa indiscrezione, due volte Repubblica scritta, vi giunge nuova? Secondo voi ha un fondamento? Non ce l'ha, e perché? Riguardi, innanzitutto, ha una precisa connotazione anticostituzionale, non costituzionale, perché ognuno deve essere retribuito per il lavoro che fa, secondo la qualità e la quantità. Qui la qualità non c'è più, la quantità nemmeno. Poi, un'altra cosa, questo governo, come altri governi, non conosce che cosa significa la parola reddito e la parola retribuzione. Cioè, se io elargisco un bonus, perché di questo si tratta poi alla fine, a qualcuno che ha il marito, per esempio, imprenditore, banchiere, non bancario, eccetera, io vado a mettere in una famiglia altre risorse che non sono né necessarie né indispensabili. Cioè, se l'intento del governo è quello di dare a chi ha di meno, questo intento è già sparito sia in materia pensionistica, dove ad alcuni professionisti con 200.000 euro all'anno di fatturato e con una pensione baby percepita con 5 anni di attività si è dato il bonus anche a quelli, stravolgendo la sentenza della Corte Costituzionale, peraltro, che non andava stravolta, andava applicata. Quindi noi non ci possiamo aspettare nulla di buono da chi non conosce né il diritto costituzionale. Aia, lei dà proprio un giudizio radicale, perché io infatti non riuscivo a capire questa premessa, cosa c'entrasse con le retribuzioni non si tratta di bonus discrezionali, qui stiamo parlando di rimettere mano all'evoluzione nel tempo della struttura e anche dei criteri della retribuzione per tutti i 3,2 milioni di pubblici dipendenti di qualunque ordine e grado dopo 6 anni quasi di stop. Torniamo tra un minuto, intanto traffico. La la versione di Oscar. Eccoci qui, come immaginavo, cari ascoltatori. Basta evocare dipendenti pubblici, oltre voi scattano automaticamente nella consueta guerra in cui lo Stato, come tra autonomi e dipendenti, ci ha abituato ovviamente a essere gli uni contro gli altri armati. Dico a chi mi dice: ti sfido a dire che le retribuzioni pubbliche sono di molto superiori alle private. Allora, l'andamento evolutivo nel tempo delle retribuzioni pubbliche è stato in effetti, fino allo stop di 6 anni fa, con punte di alcuni anni significativamente superiore agli aumenti contrattuali della media del settore privato, anzi cumulati e poi tarati in media, cioè eravamo arrivati a rapporti 1,4-1,5 per via dello stop di questi anni. A. B. Per via dell'effetto della deflazione negli ultimi 2 anni, parliamoci chiaro, oltre allo stop, il rapporto è progressivamente sceso di anno in anno sempre di più verso l'unità. Adesso siamo a 1,1, quindi si è significativamente eroso il vantaggio che le retribuzioni pubbliche a parità di qualifica davano nel settore pubblico di quello privato. Così stanno le cose. Detto tutto questo, attenzione cari amici, che non per questo bisogna giustificare la politica che per anni ha fatto boom boom boom, poi per anni sospende tutto, perché capite che la discrezionalità è comunque una roba intollerabile. Quindi io lo dico a tutela: se poi noi vogliamo un pubblico impiego che funzioni, bisogna anche sapere graduare gli interventi in questo, distinguendo, ma non è che possiamo dire voi intanto vi appendete, perché non mi pare un discorso accettabile. Sentiamo come la pensano alcuni di voi. Tra chi ci ha telefonato, cominciando con Pino da Torino. Prego, Pino. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Senta, sì. Io sono dipendente del Comune di Torino, lavoro da 30 anni. Allora, premesso che comunque i servizi all'interno dei comuni e delle pubbliche amministrazioni vengono mandati avanti dai livelli medio-bassi, e questo è sancito. Allora, è giusto che comunque un eventuale aumento venga dato solo a queste fasce, perché dare 10 euro, 15 euro a un dirigente che già guadagna 4-5 mila euro al mese, vuol dire un'assurdità. Tanto lui di 10 euro in più al mese guarda. Poi sì, sapendo che il disastro delle pubbliche amministrazioni, poi oltre ai politici, sono poi la classe dei dirigenti che manda allo sfarcello tutto quanto. Quindi andiamo ancora a premiare queste persone. Quindi dove... Pino dice: A, siccome sono pochi, diamoli a chi ha meno. B, chi ne ha di più non gli fa differenza visto che sono pochi. C, bisognerebbe anche penalizzare innanzitutto chi è per responsabilità, cioè chi è in alto. Questi 3 argomenti di Pino. Sentiamo Pasquale dalla provincia di Roma. Sì, buonasera dottor Giannino. Guardi, io sono una persona, lavoro nel pubblico, nel settore pubblico, e ho svolto nel 2014 attività extra con altri enti pubblici che mi hanno poi retribuito nel 2015. Di fatto il mio reddito complessivo ha superato i 26.000 e ora restituisco tutto il bonus degli 80 euro che aveva ricevuto, recuperati nella dichiarazione. Quindi non è vero, perché c'è un difetto di comunicazione in giro, non è vero che il bonus viene dato a chi sta al di sotto dei 26.000 euro. Di fatto il bonus viene dato a chi si sta sotto i 26.000, ma se li supera come reddito, sì, sì, non come contratto personale. No, come certo, reddito. Lo abbiamo, capisce, spiegato quindi, molte volte, certo. Esatto, sì, l'ho sentito anche dai suoi, sì, ospiti questa sera. Quindi la verità è, non è il contratto di appartenenza, quanto il reddito complessivo che fa la differenza nell'avere o meno diritto. Nel mio caso specifico, ad esempio, queste attività sono state svolte nel 2014, quando il bonus non era stato ancora stabilito. Mi hanno erogato i compensi nel 2015 e per cui hanno pesato sulla... No, Pasquale, questo è chiarissimo, ce l'ha già spiegato. Le diceva però Fucino della Will che se gli aumenti, seppur di poco, vanno sotto la fascia e poi fanno superare la fascia, questo eternerà, riproporrà la questione che è capitata anche a lei, perché dipende appunto non dalla sua contrattuale ma dal reddito complessivo. Questo diceva Fucino. Sentiamo Diego dalla provincia di Pisa, prego. Sì, io penso che gli incentivi andrebbero dati a chi li merita. Ma qui non stiamo, comunque, Diego, ma non stiamo parlando di incentivi, qui stiamo parlando del rinnovo contrattuale. Poi la parte accessoria è un altro paio di maniche. Sì, però anche quello è un aspetto. Per quanto riguarda il rinnovo contrattuale, l'aspetto rilevante è che al di là del rinnovo, i docenti universitari sono l'unica categoria che non ha avuto gli scatti di anzianità, che sono un obbligo di precedenti contratti che sono stati bloccati dalle politiche. E questo perché, spieghiamolo, perché insieme alle forze di polizia i docenti universitari sono fuori dalla riforma 2001 della contrattazione, quindi formalmente, dico, non è una difesa sostanziale del motivo, lo spiego solo a chi ci ascolta. Grazie per la precisazione fornita. Quindi su quello io sono molto arrabbiato, sul fatto che questi scatti, io sono un docente universitario, se non si era capito, non sono stati dati. Sul fatto dei rinnovi, io penso che bisogna che ci siano le risorse, altrimenti non si può. Sì, stiamo parlando comunque di 4 euro, per così dire, no, 4 no, sì, ma 10, sì. 8, 9, cioè non di più, se quella resta la cifra. Sentiamo Gustavo da Udine. C'è Gustavo? Non c'è Gustavo? No, io sono Francesco da Udine. Francesco, allora probabilmente hanno sbagliato il nome nel girarmelo. Mi scusi, prego Francesco. Allora, io... Innanzitutto buongiorno, dottor Giannini. Io volevo parlare, volevo appunto dire che secondo me dobbiamo uscire dalla logica della mancia elettorale, cioè nel senso che il rinnovo contrattuale per un numero incommensurabile di dipendenti pubblici deve essere svincolato da qualsiasi tipo di aumento, nel senso che deve essere invece basato su tutte le cose accessorie. Allora io faccio il medico e posso dire che è vero, da 6 anni non ho più aumenti contrattuali, però devo dire una cosa, che se noi andiamo a vedere i piani di lavoro fatti sulle nostre strutture, noi attualmente stiamo lavorando con 4-5 unità in meno per unità operativa. Certo. E questo naturalmente porta via, ovviamente, che cosa? Porta via una serie di dati fondamentali sull'efficienza, ma soprattutto non si arriva mai a premiare il merito. E il merito. Allora Francesco, io sul dare la parte preponderante al merito, lei andrebbe d'accordo con me, io farei così. Però i sindacati non la pensano così, a me come osservatore tocca ricordarlo. Io ricordo a tutti che Mariana Madia, nel suo Twitter, che è stato evocato all'inizio di trasmissione di smentita, non smentisce, lei dice di aver detto che chi guadagna 200.000 euro può aspettare, ma non entra nel merito di cosa sta scritto nell'atto di indirizzo che porterà in Consiglio dei Ministri. Quindi vedremo e a quel punto giudicheremo, perché secondo me la retribuzione non si può graduare, per solo dire.